Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questo è Paucracy, animali rivoluzionari. Prima di iniziare con questo episodio, vi ricordo che Paucracy fa parte di un progetto più ampio, chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/paucracy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a paucracypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. Siamo davvero molto felici di avere questo bellissimo privilegio di ospitare qui a Paucracy la meravigliosa dottoressa Cinzia Barillaro. Con il suo contributo preziosissimo muoviamo i primi passi in una realtà che noi di Paucracy abbiamo molto a cuore, ovvero il viaggio nel mondo dei cani nati liberi. Siamo davvero molto orgogliosi di potergli dare voce. Forse non potremo mai restituirgli la libertà che spesso gli viene tolta in modo approssimativo. Ma la strada per il confronto e la comunicazione costruttiva è ancora lunga, anche se personalmente inizio a vedere un piccolo sentiero. A tutti i cani nati liberi che ho incontrato e a quelli che non ho saputo riconoscere lungo la mia strada, dedico questa puntata e ringrazio dal profondo del cuore Cinzia per aver saputo comprendere le reali intenzioni del nostro progetto. Ascoltiamo l'intervista. Bentornati amici di Paucracy, abbiamo qui con noi, sono molto felice di avere qui con noi Cinzia Barillaro. La dottoressa Cinzia Barillaro è laureata in scienze naturali nel 1992 a Padova con un indirizzo zoologico-etologico. Si dedica da allora alla zooantropologia, didattica e alla psicologia degli animali domestici. È educatrice cinofila per Dog Partnership, istruttore AIECI, educa e riabilita cani seguendo il sentiero cognitivo-relazionale dal 2000. Ben arrivata Cinzia. Grazie infinite Michela, grazie davvero. Ne sono molto felice di poter partecipare a una puntata di Paucracy. Grazie, noi siamo molto molto molto molto felici di averti qua. Allora, partiamo subito con questa chiacchierata. Io l'ho voluta, l'abbiamo voluta così, perché io conosco un pochettino il tuo lavoro così per varie ricerche e per quello che ho potuto vedere e soprattutto io so che tu ti occupi di, diciamo così, di adozione consapevole in qualche modo, ma soprattutto di quei cani che molto spesso noi definiamo fobici. Ma per arrivare a quei cani fobici, insomma, a definire quei cani fobici, c'è un percorso che forse molti di noi non hanno ancora osservato bene. Tu alludi ai cani nati liberi, ai cani semiferali in particolare. Sì. Sono cani che mi sono sempre interessati moltissimo, anche perché io sono mezza calabrese, per cui andando giù dalle mie cugine che hanno un santuario privato che si regge sulle loro forze, quello di Stefania ed Elisabetta, che si affaccia vicino a Tropea, e loro accolgono i cani che arrivano lì e non solo i cani, anche i maiali, i conigli, tutte creature, galline, tutte creature scampate a delle situazioni non gradevolissime, però lì ritrovano pace. E questi cani io li ho potuti osservare anche perché lì continuano con la loro vita piuttosto libera e naturale. E in più è successo circa 11 anni fa che arrivò a casa mia il primo cane semiferale o inselvatichito, che dir si voglia, perché ci sono delle terminologie equivalenti come inselvatichito, rinselvatichito o semiselvatico o semiferale, che si equivalgono un po', anche se prendono sfumature un po' differenti. E semiferale, per esempio, c'è chi lo vuole un po' abbandonare perché ferale deriva dal latino, che significa qualcosa, no, di mamma mia tragico, però a me piace molto perché deriva ferale deriva dal greco antico terateratos. Terateratos, che significa proprio animale della selva, quindi ci sta. Ci sta tutta. E quindi arrivò questo cucciolo che aveva circa 6 mesi dalle brughiere della Puglia. Non sarò precisa nel dire il paese per salvaguardare i parenti ivi rimasti. E arrivò grazie al lavoro di un collega carissimo e caro amico, Michele Minunno, che da 8 anni osservava questi cani selvatici sul territorio. E ovviamente questi cani, per osservarli bisognava che lui stesse molto appartato, molto, come si osserva un animale selvatico, come uno studioso che osserva un capriolo o cerca di osservare animali molto, molto elusivi, che hanno non solo, diciamo, non è solo paura dell'uomo, ma non hanno un buon concetto di noi umani, a buona ragione, per diversi motivi. Il primo è di natura genetica, no? È sempre un cane, però ha una struttura familiare? Sì, ha una struttura familiare autonoma, una genetica di tipo particolare oramai e una assente socializzazione precoce con l'essere umano. Cioè, il cane nell'età critica, quei cuccioli in età critica, non vengono socializzati con gli esseri umani, ma con i loro intraspecifici, cioè con gli altri cani, e non con tutta la caninità, ma con i membri della loro stessa famiglia, quindi con la mamma, il babbo, con gli zii, le zie, i fratelli più grandi. Quindi i cuccioli vengono a contatto con questi membri, con questi individui della loro famiglia. Con quelle che speriamo che Pocrasi avrà il piacere, insomma, di incontrare anche Michele Minunno un giorno. Però io magari quando l'ho incontrato diverse volte, magari in seminari, webinar o anche dal vivo, lui le chiama anche tate, insomma, diciamo così. Sì, no, chiama tate, e come in etologia è corretto chiamarle, quei cani che hanno all'interno della famiglia maggiore propensione ad aiutare e sostenere il lavoro educativo dei genitori. Sì. Non tutti sono delle tate, non tutti sono membri della famiglia, non tutti i membri adulti, magari collaborano, però qualcuno è più predisposto a essere guardiano e a proteggere la famiglia e soprattutto allertarla e dire oh, c'è un problema là. E invece ci sono dei membri che possono essere femmine oppure maschi che hanno la propensione proprio a prendersi cura del cucciolo, magari in assenza della mamma, o aiutare e sostenere la madre. Quindi sono alcuni membri della famiglia, non tutti. Sì. E Michele Minunno, che ancora non lo conoscevo, gli era stato segnalato questo cucciolo, che era uno dei membri della famiglia che lui seguiva, che era, girava per questo paese un po' fantasma, un paese disabitato dove appunto arrivavano questi cani, che però era stato ferito dall'uomo o gli era successo qualcosa non derivante dalla sua vita selvatica, ma un brutto incontro. Era mezzo scuoiato su tutto il corpo, per cui era necessario curarlo, così lo ha portato dal veterinario. Ci sono voluti 8 rotoli di catgut per ricucire tutte le sue ferite, e a quel punto non era più, dopo un mese e mezzo, due, non mi ricordo, in clinica, non era più reimmissibile in natura, sia perché ormai era venuto troppo a troppo forte contatto con l'essere umano, sia perché la sua famiglia selvatica stava subendo dei grossi problemi di, chiamiamola pure, persecuzione, no? O comunque veniva braccata, per cui non si sapeva come sarebbe andata a finire, insomma, e quindi non aveva una famiglia dove tornare questo cane, che a quel tempo chiamavamo cucciolino. E così, tramite un'amica comune, che anche lei è istruttrice cinofila cognitivo-relazionale, che è Margherita Betteloni, il cagnolino è arrivato a casa mia, io abito in paese, però sapevano che era un'adozione consapevole, insomma, no? E io ho anche provato un po' a vedere se poteva adottarlo un mio vicino di casa, bravissimo coi cani, ma questo cagnolino si comportava esattamente come un cane selvatico, o come una rondine in gabbia, o come qualsiasi altro animale selvatico, per cui si lanciava contro i vetri della finestra, non si lasciava avvicinare, estremamente elusivo, se lo incantonavi andava in freezing, e cioè tutta la muscolatura si irrigidiva e rimaneva come in uno stato di paralisi, no? Di catatonico, anche se era un cagnolino, un cucciolo molto lucido, e lo sguardo rimaneva molto altamente percettivo, quindi si vedeva che era lucido sul mondo, era molto aperto cognitivamente. E comunque gli ha distrutto divani e tutto, e nel giro di un giorno, uno o due giorni, che ci è voluto molto, aveva solo 6 mesi. E comunque questo cagnolino chiedeva a questo mio carissimo amico e vicino di casa di aprirgli il cancello, lui gliel'apriva e si presentava a casa mia. Pensa quanto era altamente cognitivo, invece di andare via a scappare si presentava al cancello di casa mia, perché a casa mia ci vivevano 6 cani, di cui un cane che il primo giorno in cui lui arrivò l'aveva molto ben accolto, un cane da montagna dei Pirenei maschio, e con cui si è affiliato, ed è stato proprio, sono stati proprio i membri canini della famiglia, della mia famiglia eterospecifica, cioè composta da esseri umani, cani e gatti, che hanno fatto da ponte relazionale per questo cane nei miei confronti. Infatti mi ha accettata nel giro di pochi giorni, insomma, ecco. E non so se sto parlando un po' a raffica. No, ma noi, cioè, nel senso, era perfettamente la strada, insomma, che volevo intraprendere, insomma, perché poi la storia di questo cane, che magari se ci vuoi dire tu come adesso lo avete chiamato, come avete deciso di chiamarla, penso sia, mi sembra di capire, la chiave che poi porta a tutto un discorso sui cani nati liberi, insomma, quindi va benissimo. Sì, Michela, sì, esattamente. Poi questo cane l'ho chiamato Parsifal, come l'eroe ferito, o il cercatore del Sacro Graal. In realtà non era l'eroe ferito, era l'eroe, il cavaliere della tavola rotonda, la tavola rotonda di Re Artù nella mitologia antica, che che andava alla ricerca del Sacro Graal, a me sembrava un po' così, no? Un po' con l'immaginazione che, di vedere questo cane che da una vita libera, con una genetica selvatica, con un sempre cane, cane, però con una genetica un po' più di propensione alla selvaggitudine, così diciamo, alla selvatichezza, e con un imprinting, quindi con una trasmissione culturale da parte dei suoi genitori. Ho visto i video di quando era cucciolino ancora in famiglia, di come la madre, la tata e i fratelli maggiori indicassero a lui e ai suoi fratelli, quando avevano 2 o 3 mesi, di allontanarsi dagli esseri umani. Ma allontanarsi vuol dire che l'indicazione di allontanarsi arrivava già dai 200-300 metri, era già troppo, cioè non si dovevano affatto avvicinare neanche lontanamente. È un po' l'equivalente delle donne umane che dicono ai bambini stai attento al lupo, ecco. Era come se i membri adulti di questa famiglia di cani dicessero l'equivalente stai attento all'umano, evitalo, evitalo come la morte, perché porta morte. E lui l'ha sperimentata poi anche sul suo corpo, perché ha sperimentato ferite molto profonde e che le hanno danneggiato anche la muscolatura. Poi però è guarito molto molto bene, si è ripreso, era un grande atleta, saltava anche per 2 metri a piè pari, era un cane molto agile, molto percettivo e molto cognitivo, molto aperto, e questo era il suo punto forte, perché è successo questo, che quando lui ha perso la paura, proprio il mio approccio cognitivo-relazionale in cosa consiste? Consiste in questo. L'accoglienza è di questo tipo, il canto, la filastrocca, la fiaba, il cane precedente che fa da trasmittente culturale ed emozionale, per cui è come se, fra virgolette, parlasse di me. Tipo Mago Merlino, Daphne, Didone, quelli che già, insomma, quei 5 cani che erano in casa prima di lui. Lui era già un predatore, per esempio, predava i gatti, li aveva visto fare e li sapeva predare, però poi quando è arrivato in casa mia, grazie al al fatto che si era affiliato ai cani preesistenti, che erano molto intimi con i gatti, gatti che avevano avuto dei loro trascorsi vissuti precedenti all'arrivo a casa mia, non buoni con i cani, però una volta arrivati a casa mia hanno imparato il linguaggio canino e si sono molto rilassati, al punto che mangiavano insieme, dormivano acciambellati insieme. Se un gatto stava male, i cani erano di supporto e ci dormivano vicino, e viceversa. E questo è il clima emozionale in cui Parsifal è entrato, e questo cane semi-selvatico, che dava molta importanza al valore della famiglia, nel volersi ricreare nuovi rapporti, per cui ha cercato di... E i video, è tutto documentato con dei video nei miei webinar e nei miei stage, li faccio vedere, per cui è difficile forse immaginare, però lui ha chiesto affiliazione paterna, quindi è come se avesse reclutato questo cane da montagna dei Pirenei, che si chiamava Mago Merlino, questo enorme cane bianco, e che aveva avuto anche lui le sue vicende, le sue, e le aveva già superate, e lui aveva uno spirito paterno, Merlino, per cui Parsifal ha scelto il cane che aveva più spirito paterno, quindi di giocava poi insieme, Merlino gli consentiva di mangiare per primo, come si fa nelle famiglie di cani con i cuccioli, e poi c'è stato un bilanciamento durante l'adolescenza, e poi e poi tante cose, e questo ha fatto sì che per Parsifal il valore della famiglia era così alto per lui che facilmente ha superato anche lo scoglio dell'impulso alla predazione, perché sono cani questi semiselvatici che hanno una grande capacità di bilanciare gli impulsi e gli istinti. La motivazione a fare delle cose viene bilanciata dalle esperienze e dalle trasmissioni culturali, come i nostri cani di famiglia, come i pets, come quelli che vengono chiamati pets, che vuol dire accarezzabili. A me questa parola, insomma, non mi piace, piace, no? Non ci piace, no, chiamiamoli cani urbanizzati, okay. O cani che vivono nelle famiglie, sono cani che hanno origine, nati negli allevamenti, oppure cani abbandonati, che vivono nelle famiglie. Ecco, questi cani di solito non hanno la possibilità di sperimentare questo tipo di esperienze precoci, di proprio dei contributi dei membri della famiglia nella totale libertà di una brughiera, di un bosco, della periferia di un villaggio, in un villaggio mezzo abbandonato perché magari turistico, quindi magari ci vanno durante l'inverno, l'autunno e l'inverno, questi cani frequentano magari questi villaggi durante l'inverno, in modo da evitare comunque il contatto con gli esseri umani. E Parsifal è stato anche in passeggiata, per esempio quando andavamo in campagna liberi, era meraviglioso perché non c'era bisogno di insegnargli il richiamo al nome, cosa poi non necessaria con tantissimi cani, per carità, però con lui, mentre coi cani randagi, ho adottato anche due cani randagi provenienti dall'est Europa, e i cani randagi hanno un'altra modalità, sono anche più ne parleremo, comunque sì, più autonomi nel senso proprio più discinti dall'idea anche di una famiglia stabile, perché magari l'essere umano lì ci piglia un po' più di brutto, quindi magari devono anche essere... Difendersi. Devono essere un pochino più pronti a essere in grado di stare in piedi anche da soli, anche quando la famiglia di cani magari viene uccisa, deportata, ecco, è più facile che l'essere umano metta mano lì. Non lo so, questa però è una mia supposizione, non... diciamo che la specie canina è una delle specie... È una specie poco conosciuta attualmente. È veramente tanto, tanto da studiare. Per cui sì. C'è tanto da studiare e anche tanto da costruire a livello anche di cultura, io credo. Sì. Perché molto spesso ci ritroviamo cani, magari Parsifal ha avuto un passato incredibile e sicuramente ingiusto, ma ha avuto un'origine che ritroviamo comunque in comune con molti cani che vengono prelevati da situazioni familiari come quella di Parsifal, che magari lui aveva bisogno di essere aiutato, mentre molto spesso può succedere che ci sono cani che in realtà non necessitano di così tanto aiuto o di essere realmente salvati, però comunque fatto sta che alla fine arrivano nelle case, e molto spesso poi noi come volontari ci ritroviamo anche ad assistere a fughe o comunque a cani che sono spaventatissimi, e lì è molto difficile poi entrare in contatto con questi cani che vengono catapultati in una realtà che non gli appartiene. Sì, infatti per me essere entrata in contatto con Parsifal, l'incontro con Parsifal è stato molto importante per imparare ad aiutare i cani che ormai sono stati portati dalle loro terre e deportati dalle loro famiglie, è sempre più numeroso qui al nord questo fenomeno, e questi cani entrano nelle famiglie, in famiglie umane del tutto impreparate, sia come ambiente, perché sono ambienti cittadini, e sia come preparazione, se già è faticoso accogliere un cucciolo o un cane che viene da un canile, da uno stato di abbandono oppure da un allevamento, figuriamoci cos'è per una famiglia far entrare in casa un cane semiselvatico. E sono sempre più diffusi, e spesso sia il volontario che lo affida sia la famiglia che lo adotta non sono consapevoli di che cosa sta avvenendo, e questo è drammatico, perché il cane risulta essere magari fobico, Mm-mm. magari depresso, magari in uno stato di stress cronico o di ansia totale, non capace di socializzare con l'essere umano, va in evitamento, oppure anche non socializzato con gli ambienti urbani, per cui veramente, veramente le cose della casa possono essere terrorizzanti, quelle cose che per noi sono normali, per lui potrebbero essere terrorizzanti, e passa una vita d'inferno. Non parliamo cosa succede quando non vengono restituite al canile, e lì ci finiscono il canile. E lì finiscono anche male, perché passano anni e anni fermi, seduti, rannicchiati in un angolo, terrorizzati dalla presenza umana, perché è un po' come se un essere umano fosse sbattuto in un gruppo di leoni. Ora, magari i leoni è così come ci vedono loro. Quindi, poi un'altra fase estremamente delicata è quando superano, grazie a un certo tipo di approccio, quando io seguo queste persone, queste famiglie, c'è la possibilità di superare i cani, anche se viene supposto che questi cani manchino di strutture neuronali per poterci accettare come parte della loro famiglia e riconoscerci come eterospecifici di buon di sì, benevoli, però nella mia esperienza sanno superare questa cosa se ci poniamo in un certo modo. Per esempio, però richiede che l'essere umano, che la specie umana faccia un salto verso, diciamo, l'animalità, cioè recuperi la componente più espressiva e più e scopra quali sono le emozioni che sta mettendo in campo, e quindi anche lavorare sulla voce, il canto, il riequilibrio emozionale. Quindi deve fare un percorso personale. Sì, assolutamente. Altrimenti non si arriva a questi cani. Se si fa questo percorso personale, si vedono grandi cose. Proprio vedi il cane che rifiorisce, che trova nuove modalità, che ci inserisce nel suo mondo, e noi diventiamo parte del suo, e creiamo qualcosa di veramente nuovo e meraviglioso su questa sottile linea di confine. Con Parsifal sono andata ovunque, a convegni, in treni super affollati in agosto, siamo stati ovunque, sono stata anche appunto al santuario delle mie cugine, dove ci sono tutte queste galline, e lui non le ha predate, ne ha predata solo una, perché uno dei cani della famiglia ne rincorreva una, e lui per solidarietà lo ha aiutato, però poi gliel'ha regalata, l'ha uccisa e poi gliel'ha regalata a questo compagno di avventure. Per il resto c'era tutto un movimento di galline che volavano sugli alberi, scendevano molto confidenti con noi umani, amichevoli, ognuna col suo nome, e lui non ne ha toccata una senza bisogno che io gli dicessi non si tocca, così come coi gatti, lui dormiva insieme, ci mangiava insieme, facevano le passeggiate insieme, perché questa modalità di farmi ponte relazionale verso gli altri umani, verso i gatti, verso... Però c'è stato un momento molto critico, quando lui ha cominciato a essere adolescente verso l'età di... verso i 9 mesi, un anno, quando ha cominciato lo sviluppo sessuale, verso un anno, piano piano, è successo che perdendo la paura e diminuendo la distanza di sicurezza verso gli umani, quindi perdendo l'elusività che su cui io stavo proprio lavorando, perché la vita ormai non era più quella selvatica, libera, era quella proprio di città. Di città, e quindi gli esseri umani ci sono. Il mio intento era dire come vuoi bene a me, come io voglio bene al tuo popolo di cani. Ecco, il mio popolo è quello degli esseri umani, e quindi il lavoro è quello di essere genuinamente innamorati delle persone, dell'essere umano, di sentire come io mi sento verso l'essere umano, perché lui guardava me e guardava cosa ne pensavo io degli altri umani. E questo è stato però prima di arrivare a fare questo salto evolutivo, che lo ha fatto e lo ha fatto straordinariamente bene, diminuendo le distanze di sicurezza, Parsifal poteva diventare veramente pericoloso, perché era fra l'altro anche un po' sì, lui probabilmente nel gruppo sociale sarebbe diventato un po' una sentinella, un protettore del gruppo sociale, guardiano, per cui questo era un po' il ruolo che si voleva ritagliare, per cui aveva la tendenza a saltare addosso. E, ecco, per dire che c'è un momento critico in cui, quando diminuisce la distanza di sicurezza, perché aumenta la curiosità e la voglia di conoscere l'essere umano, può, in certi cani di questa natura, può essere, di queste origini, può essere un po' pericoloso. È molto importante il modo in cui accompagniamo questo processo, e rimanendo presenti a noi stessi, coltivando le emozioni a cui vogliamo che loro si ispirino, perché loro è così che imparano, in realtà tutti i cani, anche i cavalli, anche i maiali, è così. Anche in tutte le società animali funziona così, autogestite, anche quelle di bovini, di mufloni, di gnu, no, non c'è uno che comanda e dice agli altri come devono sentirsi, come devono comportarsi. Ci sono gli adulti, che sono di solito i genitori, poi i membri più anziani, che ispirano i giovani, e li ispirano perché... Questo è un leader, no? Li ispirano perché hanno delle competenze che sono utili alla sopravvivenza, da un lato, e all'omeostasi emozionale e fisiologica, dall'altro, e quindi a un buon sviluppo ontogenetico. Pensiamo alle orche. Studi recentissimi, però, che affondano le radici in 30 anni di studi nel nord-ovest del Pacifico, gruppi di orche, e sono stati studiati circa quasi 400 nipoti, quindi giovani orche maschi e femmine, la cui sopravvivenza dipende soprattutto quando c'è scarsità di salmoni, e ultimamente il pesce e le loro risorse alimentari vanno scarseggiando a causa della incresciosa e criminosa competizione umana, che distrugge gli oceani, sì, la vita negli oceani, e quindi anche destabilizza la vita del pianeta. Ecco, che succede? Che quando sono presenti le nonne, sono femmine che smettono di riprodursi all'età di 40 anni, vanno in menopausa e vivono dai 40 ai 90 anni, fino ai 90 anni, queste donne orche, queste nonne, ispirano questi e proteggono e indicano come trovare cibo quando c'è scarsità. E questa cosa è stata comprovata dal fatto che quando in certi gruppi la nonna moriva precocemente, la possibilità di sopravvivenza di questi nipoti decadeva. Cioè anche i nipoti potevano morire precocemente, a non farci arrivare magari all'età adulta. E quindi questa storia, no, del capobranco è veramente, ecco, appunto come dicevi tu prima, Michela, sì, ci vuole tanto continuare a studiare e a osservare senza pregiudizi, cioè osservare i comportamenti dei cani semiselvatici, i cani randagi, quindi nati liberi sul territorio, e poi i cani abbandonati, che invece vanno inseriti nelle famiglie, perché loro sì che hanno bisogno di una famiglia, perché li vedi che sono smarriti per strada, e dei cani urbanizzati, cani che vivono in famiglia. E molto molto molto c'è da fare ancora, perché purtroppo l'etologia canina è recentissima, a 20 anni, 22 anni per la scienza, vuol dire che è neonata, ecco. Ma diciamo che anche l'approccio è comunque è difficile, e far comprendere il messaggio, insomma, che vogliamo dare, anche con un podcast come questo, come tanti altri che sono nati negli ultimi anni, trasmissioni o comunque webinar eccetera eccetera, che cercano comunque di dare questo messaggio, che prima di tutto è bene prima di decidere il futuro di un essere umano, soprattutto adesso ci occupiamo dei cani, però non soltanto dei cani, forse è bene capire quali sono i cani che veramente hanno bisogno del nostro aiuto. Questo è un passo importante che secondo me si sta compiendo, però ancora è un passo molto lento, tipo a rallenti, lo vedo, no? Non so se sei d'accordo, sì, con me. Sì, sono molto d'accordo con te su tutti e due i fronti, sia quello che sia molto necessario che il personale che frequenta i canili, volontari compresi, sì, accedano a questo materiale. Va bene, è incompleto, lo capiamo, perché la specie canina si declina in moltissime modalità e sfumate fra di loro. Il 75% circa, si stima circa, perché nessuno poi si è messo veramente a contarli tutti, comunque circa della popolazione mondiale dei cani sono nati liberi fra randagi, quindi che frequentano la città e anche hanno qualche forma di relazione con l'essere umano, non belligerante, tranquilli in mezzo alle persone, che magari utilizzano anche la metropolitana come i cani di Mosca, e la sanno utilizzare molto bene per andare nei luoghi di alimentazione e poi tornare a casa, a dormire nelle stazioni di origine, oppure i cani del villaggio, i cani paria, i cani semiferali, i cani selvatichiti e i cani selvatici, i veri e propri selvatici, come lo sono per esempio il dingo. Quindi c'è una grande marea di declinazione, sì. Ma il 75% sono cani, e quindi c'è tanto da scoprire e da conoscere. Sarebbe, va bene, c'è ancora molto da studiare, però c'è già molta bibliografia che ancora molto del personale degli addetti ai lavori non sta consultando. Io faccio un esempio. Cioè, per esempio, questo ricercatore di Roma, che è il dottor Roberto Bonanni, che è non solo uno straordinario ricercatore appassionato, molto in gamba, ma tutti i suoi articoli scientifici a riguardo di questo tema sono pubblici, li ha resi pubblici, è molto generoso da parte sua. Io anche li divulgo con Facebook, però bisognerebbe anche leggerli, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. E magari anche partecipare agli eventi che lui crea, ma dovrebbe esserci una partecipazione molto fitta, perché è anche agli stage di Michele Minunno quando fa su questo tema, no? I nati liberi. Adesso, allora, Roberto Bonanni una volta all'anno, e spero anche questo anno che viene, organizza un grande convegno, umani, cani e lupi, in cui ci sono più relatori che parlano, relatori super preparati sul tema, che guardano da più punti di vista questa tematica della condivisione sul territorio della vita. È stato già affrontato, poi avremo modo di parlarne, perché io ho partecipato a Roma a un seminario anch'io, in cui c'erano sia Minunno che altri esperti che hanno parlato, hanno affrontato l'argomento lupi e cani, e sì, è stato molto interessante. Credo che ci fosse anche il signor Bonanni, il dottor Bonanni, però non mi ricordo al momento. Lui è l'organizzatore. Okay. Lui c'era. Sì, c'ero anch'io lì a Marino. Questa è stata a Roma, però vabbè, ce ne sono stati diversi, poi magari dopo ci scambiamo le informazioni, sì, insomma, sì, e le scambiamo anche agli altri. Però sì, ce ne saranno altri, e io spero che con Pocrasi e con la partecipazione di molti di voi, partendo da te Cinzia, che sono felicissima di averti qua, perché hai sposato in pieno il mio progetto, nel senso che io nasco come volontaria, cioè ho aperto libri e ho cominciato a leggere perché mi sono fatta un po' di domande, ovviamente grazie anche alla formazione che mi è stata data nel rifugio in cui sono nata come volontaria, assolutamente. Però è importante che iniziamo veramente a capire che il nostro, diciamo così, le nostre azioni fanno veramente la differenza, e la fanno nel bene e nel male. Sì, esattamente. Per quanto mi riguarda, ho appena finito uno stage di 2 giorni a Bergamo, vicino Bergamo, alla Tana della Gioia, proprio sul tema Nati Liberi, in cui in parte ho cercato di fare la formazione, ma in gran parte abbiamo proprio lavorato insieme a questi cani nati liberi, che già, cioè, c'erano i proprietari con questi cani, e tutti da capire, c'erano cani randagi nati, randagi in mezzo a un paese, magari soprattutto ovviamente centro-sud Italia, e lo dico con tutto l'affetto del mondo, visto che sono anche calabrese, e cani che, per esempio, un cane che era nato in mezzo al bosco e che scopriamo essere proprio un cane randagio al limite del ferale, e con una ha potuto esprimere le sue potenzialità, e i proprietari hanno cambiato proprio il modo di viverseli e di goderseli, anche reciprocamente godersi il cane, la persona umana, e la persona umana godersi la persona canina. E poi a luglio Michele Minunno ed io faremo 2 incontri, il 14 luglio e il 28 luglio, proprio sul tema dei nati liberi, per cui lui tratterà soprattutto la prima parte della loro vita, quindi come loro costituiscono un gruppo sociale, che cosa è un gruppo sociale per loro, proprio mostrando video, documenti, filmati. E, dove si terrà questo? E io farò invece la seconda parte. Come? Dove si terrà questo incontro? È online. Ok. Due webinar, due serate, sì, online, che ora fra poco, ora ancora non abbiamo preparato la locandina, e fra poco la metteremo fuori, e io tratterò la seconda parte di come aiutare un cane che ormai purtroppo è arrivato qui al nord, e come aiutarlo al meglio per compiere un, non solo vivere adattandosi al meglio. Io, l'adattamento va bene, ma soprattutto come lasciarsi trasformare noi umani dall'arrivo di questi cani e andare loro incontro scoprendo doni nuovi proprio nell'incontro, perché non so come spiegarlo. Vedere un cane semiferale, no? Che acquista fiducia nell'umano nel momento in cui l'umano incomincia a scoprire quali sono le proprie rigidità, quali sono le proprie chiusure verso gli altri umani, per esempio. Come essere ponte relazionale verso. Io uso molto la fiaba perché aiuta, e anche il canto, ma non il canto pop, non il canto, il bel canto, non da diventare pop star, anche un canto stonato, anche un canto mal fatto, ma fatto esercitandosi a scoprire cosa si muove e cercando di muovere ciò che è stato bloccato, aiuta il cane a sentire che c'è questo sforzo e noi a essere più coscienti, più consapevoli, perché questi sono cani che hanno una lucidità mentale e capacità cognitive aperte che spesso i nostri cani urbanizzati se le sognano. Quello che faccio con i cani urbanizzati è proprio quello di cercare di restituire loro la libertà espressiva, cioè di ricostruirsi cognitivamente, per esempio scegliendo il proprio l'aiuto del veterinario nutrizionista, ovviamente, per esempio offrire una rosa di cibi, ma dentro degli scatoloni magari, e queste scatole magari nasconderle sotto dei cespugli e fare degli involti in modo che il cane riacquisti tutte quelle abilità cognitive che un cane selvatico esercita di default fin da cucciolino, andando in cerca, ricevendo dalla madre, guardando i membri adulti della famiglia, poi diventando più grande e anche lui cercando, dovendo fare anche chilometri per cacciare o per reperire qualcosa di abbandonato lì, del cibo abbandonato dall'uomo. Non parliamo dei cani randagi, che bravi che sono nel reperire il cibo nei cassonetti. No? Sono cani così, i cani dei cassonetti. Di restituire anche l'uso degli spazi, il contatto, il sentirsi in contatto senza doversi vincolare con i guinzagli l'un l'altro. Certo, l'obbligo del guinzaglio c'è e va rispettato e ha un suo senso, è chiaro, è un processo lungo e impegnativo, però diciamo che questi cani nati liberi, i randagi e i semiselvatici o gli rinselvatichiti, ci portano a riconsiderare il paradigma del cane da un punto di vista più ampio, e io direi che ci portano anche, ci conducono, se vogliamo veramente affrontare la cosa per bene, da un punto di vista etologico e zooantropologico, cioè nel rapporto che l'essere umano ha con gli altri animali, e vogliamo anche ecocentrico, cioè il rapporto dell'essere umano con tutti gli altri esseri viventi ed essenti, a considerarci noi umani una parte di un pianeta che è vivente E non lo dico come lo direbbe qualcuno nella New Age, con tutto rispetto l'affetto, la stima che ho per questi movimenti, ma proprio come lo direbbe un ecologo, cioè qualcuno che studia l'ecologia. Noi siamo inseriti in un ecosistema molto ampio che è il pianeta Terra. Il pianeta è un essere vivente, considerato un essere vivente dagli ecologi. È così. Wow! Sono affascinatissima e veramente sposa in tutto, tutte le tue parole per me sono importantissime e io sono assolutamente d'accordo in tutto. E volevo farti una domanda prima, volevo farti in realtà due domande. Una è, perché non mi sembra che sia emerso, però mi piacerebbe sapere, capire se Parsifal ha avuto modo di tornare nella sua terra natia. Ah, che bella domanda, grazie. Sì, allora, quando lui aveva circa un anno e 8 mesi, Michele, mio nonno, mi chiamò a fare uno stage lì da lui sulle terapie assistite dagli animali, cioè come il cane può entrare in una modalità però libera dal punto di vista cognitivo relazionale, perché questo è poi il nostro pallino, no? Cioè in modo libero relazionale. Allora sono andata giù con Parsifal, anche perché non è che lo potevo lasciare a casa, e l'ho portato, e sono andata con un'amica e la sua figliola, e Parsifal e questa bambina hanno dormito sul sedile posteriore abbracciati. È molto bello, è stato molto tenero. E siamo andati nelle terre di origine, di cui non farò il nome, e Parsifal ha rincontrato sua sorella, una sorella che ancora era libera lì, e ha rincontrato non era esattamente uno zio, era un cane che a suo tempo faceva le veci dello zio, e ovviamente presentatimi da Michele, perché io non li conoscevo, e qualche altro cane del gruppo, però erano un po' sparuti, non c'era più il gruppo di origine di lui, non aveva avuto un futuro, perché insomma, e si sono riconosciuti, si sono salutati, hanno mangiato insieme delle crocchette che dei volontari avevano lasciati in centro a questo paese fantasma e disabitato. È stato molto molto bello, siamo andati in giro per le brughiere con il gruppo, un gruppettino di cani, quelli di Michele, i due cani della mia amica e Parsifal, è un gruppetto così, e poi lui ha voluto tornare a casa con me. Ha voluto tornare a casa con me perché a quel punto la famiglia ero io, Merlino, Didone, Daphne, i gatti. Aveva recepito che la famiglia poi era quella, anche i nonni, mio papà e mia mamma erano diventati parte della sua famiglia. Certo, anche gli esseri umani a un certo punto sono entrati, e questo mi ha fatto molto pensare, Michela, ma veramente molto pensare, perché la finestra della socializzazione precoce si chiude al massimo a 4 mesi di vita e farsi fare. Sembrerebbe di sì, però. Era fuori. E ho ragionato di questo. Abbiamo visto che i cani semiferali adulti, che vengono prelevati già da adulti, possono avere qualche potenzialità in più, ma i cani, perché hanno già molto visto, molto vissuto e hanno un equilibrio mentale, ma i cani come Parsifal che vengono, sì, lui per forza di cose, perché era veramente, sarebbe morto lì, perché era ferito in una maniera esagerata, quindi viene da dire che era quasi destino, no? Che arrivasse a casa mia nel suo caso, ma anche perché ci siamo voluti un bene tale che non posso neanche pensare di non aver vissuto insieme a lui, però ha vissuto felice, sereno, aperto, gioviale, cioè, non ha rimpianto poi nulla, quanto ho potuto poi vedere, però io ho comprato un campo proprio anche perché i miei cani potessero viversi, e quindi gli stagni, il boschetto ricreato su questo campo, e poi le montagnole di terra in cui si sono coordinati, hanno scavato dei tunnel, cioè uno entrava da una parte, erano tutti coordinati, quindi avevo una vita sociale canina molto soddisfacente anche con la mia famiglia. Poi avevo anche i cani, alcuni cani dei miei clienti, con cui poi magari lui diventava amico, cani dei miei amici, delle mie amiche. Quindi insomma una vita bella, soddisfacente. E questo però mi ha portato a capire come aiutare le persone e i cani che appunto erano nelle stesse condizioni, per motivi completamente diversi, cioè cani che non sono stati salvati dalla morte, no. Sono stati prelevati e tolti dalla madre. Io voglio sperare sempre, e io in buona fede, cioè mia mamma dice sempre, ha sempre detto, i piatti li rompe chi li lava, sì. Quindi il buon cuore, sì. La passione dei volontari è sempre encomiabile ed è assolutamente sempre da sostenere. Anche io sono volontaria. Siamo volontari entrambe. Diciamo. Ecco, voglio dire, chi non li capisce, li capiamo molto bene e li vogliamo bene, però... No, siamo anche, cioè almeno da parte mia, mi sento di dire che molto spesso ho fatto lo stesso errore. Capito? Di dire questo cane è stato salvato dalla strada. È da lì che è partito il mio ragionamento, che però è durato, cioè ci sono voluti anni per cominciare a farmi una domanda e chiedermi ma quale strada? Da dove vengono questi cani? Sì. Perché arrivano in queste famiglie, eccetera, eccetera. Sì, è un processo di conoscenza che si sviluppa negli anni, un tempo poi proprio non se ne parlava. Per me era un po' più istintivo perché io appunto frequentavo molto ogni anno la Calabria, ma non solo, ma nel Veneto quando io ero bambina, io sono vecchia, ho 53 anni, quindi quando ero piccolina, ragazzina, andavo a scuola, i cani randagi c'erano. Non erano cani abbandonati, c'erano anche i cani abbandonati, li vedevi che erano tremendamente smarriti. Ma io con i miei avevo organizzato il gruppetto Salva Natura e con i miei compagni di classe delle scuole elementari portavamo le coperte, il cibo, così, perché questi cani arrivavano nel giardino della scuola, giocavano con noi oppure si facevano gli affari propri, facevano delle cose e poi se ne andavano. E per me era naturale dire aiutiamoli nel loro posto, anche perché non, io abitavo in un condominio e di sicuro sì, a quei tempi insomma era proibito e comunque era impensabile portarmeli a casa, però ecco, quindi per me era abbastanza naturale. Ma vedere cani felici sul territorio e da liberi. Però ecco, ci siamo evoluti in una società che non dà spazio ai bambini. Io sono anche insegnante, cioè insegno anche ai bambini le scienze naturali, ai ragazzi, e organizzo i centri estivi, cose così, e le terapie assistite, l'educazione assistita. E io e le mie socie dovevamo sempre in questa fattoria didattica meravigliosa vicino Venezia, dovevamo insegnare i bambini a arrampicarsi sugli alberi, arrampicandoci noi, no? Imparando arrampicarsi, a saltare i fossati, fare cose un po' libere, a dipingere con le mani, a dipingere anche con... Diciamo che ci vorrebbe una di liberi un po' per tutti, un po' per tutti. un po' per tutti. Quindi se non abbiamo questa dimensione della costruzione del gioco basato sull'immaginazione libera e queste storie che poi diventano storie che poi puoi rappresentare anche come una rappresentazione teatrale per bambini, per i ragazzi. Adesso questo molto si fa e molto si sta facendo, mamma mia, la pedagogia ha fatto passi da gigante, ma figuriamoci cos'è per i cani, il cane che vive in famiglia, che esce di casa col guinzaglio, fa la passeggiata al guinzaglio, magari va in area cani dove c'è un pupurrì di cani. A volte io sto generalizzando, è chiaro che ci sono sempre delle situazioni belle, in equilibrio e che funzionano molto bene, è chiaro, no? Che vogliamo, adesso generalizzo, ma nelle aree cani magari c'è odori di cani che hanno litigato un attimo prima, cani che non accettano altri cani, che però vengono comunque messi insieme, tutta una serie di giochi impostati dall'uomo, e quindi il cane è difficile che si crei una sua dimensione di famiglia canina, vede cani che vanno, cani che vengono, cani che per un periodo sono nella sua vita e poi non ci saranno più, perché magari i proprietari non si frequentano più. E poi a casa magari mangiano in maniera monotematica, dentro una ciotola, nel luogo e all'orario che il proprietario impone. Ci vuole molta elasticità per restituire al cane la sua dimensione di abilità, di elasticità mentale. Certo non è facile parlarne in un podcast, perché no, ci vuole proprio dimostrare le cose. Sì, però iniziamo con l'invito magari ai proprietari e a informarsi o a cercare di capire, insomma, quale può essere una strada che renda magari la routine del cane o la vita del cane migliore, e quale può essere la strada per comunicare noi stessi proprietari con i nostri cani, nonché, insomma, capire come poi poter aiutare i cani che vivono nei rifugi, nei canili, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente sì, è fondamentale questo invito, e infatti ho aderito con entusiasmo al tuo invito. E iniziare anche a studiare un po' di bibliografia, tipo il libro di John Bradshaw e di Brian Eyre, di Michele Minun, vero? Sì. Ecco, che è un libro fondamentale, è incredibile, è molto, molto, molto intenso. Mi sembra che si intitoli Attenti ai cani, di Paola Valsecchi, questa professoressa universitaria etologa, anche lei naturalista, e naturalmente Lupi travestiti, della Barbara Gallicchio, se vogliamo dare, insomma, una rosa di riferimenti bibliografici. E sicuramente sul tema dei nati liberi andare a consultare gli articoli che il dottor Roberto Bonanni ha messo a disposizione, e li trovate sia sul suo sito internet che anche sul suo Facebook. Su Facebook, sì, e poi basta chiedergli, lui è molto disponibile a linkare i suoi articoli, che è già un passo, direi, molto, molto. Bisogna iniziare a informarsi, a informarsi e a rendersi consapevoli. Sì, è un po' come, per esempio, all'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri, di cui così facevano parte anche mio papà e mia mamma, e facevano dei corsi per i volontari per approcciarsi ai malati. Sì. Cioè, come dire, di preparare i volontari, Perché non è perché sei volontario e allora sei anche esperto. Certo, magari hai molta esperienza e questa molta esperienza ti aiuta, però quando non hai anche studiato e la psicologia canina richiede anche di fare un lavoro di psicologia comparata, che oggi l'etologia del cane sta chiedendo e degli altri animali. L'etologia in generale sta chiedendo questo, no? Sta facendo questo, sta facendo un lavoro di psicologia comparata. Anzi, a dire la verità, per essere del tutto onesti, proprio il fondatore dell'etologia moderna ha fatto questo, Coran de Lorenz, padre dell'etologia moderna, ha creato la disciplina dell'etologia umana. E infatti la seconda parte del suo lavoro, è la prima parte, ricordiamo tutti, no? E le taccole, l'oca martina, tutti i suoi studi molto approfonditi sull'etologia degli animali, ma poi ha detto: ma anche l'essere umano è un animale, ha fondato l'etologia umana che non può che confrontarsi con la psicologia e quindi ha buttato le basi per la psicologia comparata umana e di ciascun altro animale. Non ti sento più. Ci sei, Sì, Cinzia? ci Sì. sono. Sì, mi ero fermata. Allora, sì. Poi magari questi spunti bibliografici cercheremo eventualmente di elencarli insieme, magari di fare un elenco, un suggerimento per chi vorrà approfondire questa bibliografia. E ti faccio un'ultima domanda, poi andiamo magari a concludere, perché volevo chiederti, l'hai nominata molto spesso, quello che è la fiaba, ok? Ah, sì. E mi sembra che sia un elemento che caratterizza molto il tuo lavoro nei vari, diciamo così, nei vari aspetti di cui ti occupi, ma dal punto di vista proprio della cinofilia, del rapporto cane-umano o dell'eventuale comunicazione tra gli altri, tra te e i cani. Come utilizzi la fiaba? Ecco, la fiaba, l'ho incontrata negli anni. Io ho cominciato a fare la narrafiabe, la cantafiabe nel 94, per ragazzini, bambini, ragazzi, e sempre più l'ho approfondita facendo anche teatro e ho scoperto i contenuti simbolici della fiaba, che la fiaba è un genere letterario totalmente a sé. Nessuno oggi può scrivere una fiaba. Non esiste qualcuno che oggi possa scrivere una fiaba. Qualunque cosa uno scriva oggi può essere un racconto fiabesco, può essere un racconto di fantascienza, un racconto immaginativo. Anche le fiabe d'autore, come quelle di Andersen, sono fiabe d'autore, ma le fiabe sono, diciamo, reperti archeologici, narrativi, che contengono strati che derivano, che sono nati nelle antiche culture umane matrilineari, di culture matrilineari, e ne portano le tracce e sono e narrano di percorsi iniziatici. No, non di rado, anzi molto spesso, l'eroina è una donna, una ragazzina, una fanciulla, come Cenerentola, la Bella Addormentata nel Bosco, che poi nelle versioni cinematografiche sembra la povera fanciulla che è vittima di tante cose e deve essere salvata dal principe, ma nella fiaba originale invece è l'eroina della fiaba. Poi ci sono anche fiabe al maschile, dove c'è anche l'eroe maschile, che non sono. Che sono dei narrano di percorsi iniziatici dove il il fanciullo, la fanciulla imparano a entrare in contatto con parti di sé, quindi della psiche, dove nella fiaba ogni componente, almeno come poi la leggeva Carl Gustav Jung, questo psicoterapeuta contemporaneo e collega di mamma mia, mi sfugge il nome, il fondatore della psicoterapia. Freud, grazie, non so come mi poteva. È un lapsus. Esatto, davvero, grazie. E lui parlava proprio, Jung, della lettura delle fiabe come... all'interno della fiaba ogni componente rappresenta una parte della psiche, e quindi come la utilizzo io all'interno della cinofilia? La utilizzo con quelle persone, quelle famiglie, se c'è una persona o se c'è una famiglia, di vedere qual è il nocciolo e cercare la fiaba che va bene per quella famiglia e raccontarla e poi meditarla insieme aiuta queste persone a sbloccare la persona umana a sbloccare alcune cose in alcune direzioni, e se lo fa pensando anche al rapporto, alla relazione col cane, aiuta a sbloccare quella cosa, perché in generale la fiaba, il canto e la filastrocca aiutano noi umani a uscire dalla dimensione, per esempio, di un tempo, del tempo strutturato con l'orologio, così, ed entrare in una dimensione di un altro tempo, che è quello del cane, dove esiste la sensazione del tempo che passa, esistono i ritmi circadiani, per esempio i ritmi di veglia e sonno, le alternanze stagionali, esiste il senso del tempo che passa, ma in una dimensione molto diversa. Infatti anche quando incontro i clienti, per esempio, possiamo stare anche 3 ore insieme con un cliente solo. Ci lasciamo portare in quella dimensione lì. Poi la filastrocca ci porta, e anche il canto e anche la fiaba ci portano fuori dagli schemi logico-matematici normali, no? Quelli della pura razionalità, per cui guardiamo il cane, all'orecchio un po' su, un po' giù, questa coda... Chiaro che devi avere molto ben presente tutto l'etogramma del cane, tutta la gamma comportamentale, devi studiare molto molto bene, ma poi deve diventare molto, devi entrare, uscire da tutto ciò che hai studiato e tenerlo come bagaglio culturale, per poi entrare nella dimensione di quell'individuo lì e di come quell'individuo, solo quell'individuo lì, utilizza quel comportamento per dire quella cosa, per cui quel comportamento non ha lo stesso valore, la stessa valenza, quel cane che monta, se si chiama Alice, non lo fa con lo stesso intento, con la stessa valenza dell'altro cane che si chiama Zero, con l'altro cane che si chiama... Ogni cane declina in un modo unico, personale, quel comportamento. Quindi per riuscire a cogliere questo è importante che anche il canto e la filastrocca ci destrutturino un pochetto e ci portino in una dimensione un po' di no sense per poter entrare nel mondo dell'animalità che ci appartiene, e nel senso più bello della parola animalità, che non vuol dire bestia, no? Vittime degli impulsi più beceri. Questo spesso siamo noi umani, sì. o animali costretti in cattività. Mm-mm. Hanno sperimentato anche molti animali che vivono, anche molti cani che vivono in casa, non hanno sperimentato il modo di elaborare i propri... le proprie passioni, i propri impulsi e come raggiungere invece i propri desideri, che è una cosa diversa, il desiderio. Impulso è ciò che ti dici, un impulso aggressivo, do un pugno. Invece il desiderio è qualcosa che nasce proprio dal cuore, ha a che fare con la missione, i progetti di vita. Altra cosa, l'etimologia della parola desiderio deriva da desiderare, no? Far scendere dalle stelle. Tirar giù dalle stelle. Le stelle, quando sideri, allora è un po' come ti può dire l'oroscopo, accadrà questo, questo e questo, e vabbè, la vita è così, è predestinata. Tu desideri e tiri giù quelle stelle e cominci a creare qualcosa di nuovo. Come fanno gli animali selvatici e le piante selvatiche quando co-creano gli ecosistemi? Lì c'è adattamento, ma c'è anche capacità creativa, no? Stupendo. Sono molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto attenta e concentrata in questa, diciamo così, in questa serata, perché veramente ogni parola in questa intervista è stata molto preziosa. Allora, Cinzia, io ti rimando, sicuramente approfondiremo con la bibliografia quello che abbiamo detto, ma soprattutto, a questo punto ci vediamo a luglio, sicuramente, anche Volentieri. solo online. Eh sì, online. Ok, magari poi quando avrete fatto locandina, informazioni migliori, cioè un po' più approfondite, eccetera, eccetera, ce le mandate e noi saremo ben felici, insomma, di pubblicizzarvi e di sostenere questo webinar, questo incontro, a cui sicuramente io parteciperò e spero, insomma, che parteciperanno, sicuramente parteciperanno in molti. Ti ringrazio moltissimo, Cinzia, e Grazie. spero che tornerai qui con noi a Pocrasi Molto e volentieri. per il momento ti ringrazio molto. Grazie infinite a te, Michela. Grazie e complimenti per l'opera di formazione che stai compiendo. Ti ringrazio. Speriamo di riuscire a fare piccoli passi. Io ringrazio sia te che tutti i collaboratori, tutte le persone, insomma, che stanno rispondendo a questa chiamata alle armi, insomma. Quindi speriamo che insieme riusciremo a costruire qualcosa. Grazie veramente. Grazie davvero. Buona serata. Buona serata. Bene amici, per questo episodio è tutto. Ringrazio ancora tantissimo la dottoressa Cinzia Barillaro e spero di poterla ospitare nuovamente per affrontare insieme questo e altri magnifici viaggi. Prima di lasciarvi, vi ricordo che Pocrasi fa parte di un progetto più ampio, chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/pocrasy e su tutti gli aggregatori podcast principali da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a pocrasypodcast@gmail.com. Da me, Michela De Paola, è tutto. Ciao al prossimo episodio e che la rivoluzione abbia inizio!